c'è già un re che canta e la sua regina, tradito dalla propria metà. Ciò che rimane non è la vita, fuori dalla mia proprietà. E questa volta non la voglio una scusa, fuori dalla mia città. Vedrai scomparire l'oro della corona, cadere rotolandosi fino alle mura. E allora mi chiederai se, se fuori dalla valle dei re. Questa volta non la voglio una scusa, fuori dalla mia città. Vedrai scomparire l'oro della corona, cadere rotolandosi fino alle mura. E allora mi chiederai se, se fuori dalla valle dei re. Stanza, le solite bugie che